giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Muore schiacciato da un macchinario in un'azienda di Mariano. La vittima aveva 30 anni. Primi indagati per lo schianto dell'ultraleggero a Lusevera, costato la vita a un pilota delle Frecce. 31 anni dopo Capaci parla il figlio dell'agente di scorta Vito Schifani, presta servizio in Friuli, nella finanza. Discarica abusiva a Paularo, nell'area batterie e pneumatici di un'officina non autorizzata, 2 denunce. Arrestato per stalking a Trieste, perseguitava la ex compagna con telefonate, appostamenti e minacce. Sospensione dell'attività per un ristorante di Monfalcone, 3 lavoratori in nero, 1 era in disoccupazione. 80 ricercatori europei a Elettra Sincrotrone Trieste con ICGB e Area Science Park, studi di avanguardia per sistemi multiproteici. 12:31 minuti, buongiorno da Lara Zani e Rita Micoli. In apertura la cronaca con una notizia arrivata poco fa in redazione: ci sono artificieri al lavoro in largo città di Santos, nei pressi della stazione ferroviaria di Trieste, per verificare il contenuto di un pacco sospetto. Ci sono conseguenze sul traffico per lo sgombero dell'area e in particolare per lo spostamento dei capolinea delle linee del trasporto urbano. 2 incidenti mortali sul lavoro in meno di 24 ore in regione. Dopo quello di ieri a Ovaro, un operaio precipitato con il suo camion, l'ultimo è avvenuto nel cuore della notte a Mariano del Friuli. La vittima è un operaio trentenne schiacciato da un macchinario. Stava lavorando su una pressa con un collega che lo aiutava sul fronte opposto del macchinario quando si è trovato impigliato nella fase di chiusura, rimanendo così schiacciato. Nicolas Nanut, 30 anni, originario di Monfalcone e residente a Cormons, stava svolgendo il turno di notte alla ditta APS Arosio di Mariano del Friuli, a pochi chilometri da Gorizia. L'azienda, che occupa una quarantina di dipendenti, è specializzata nel trattamento dell'alluminio in estrusione. All'1:30 la tragedia. Immediata la chiamata di soccorso, ma i sanitari della struttura operativa regionale di emergenza sanitaria, coadiuvati dai vigili del fuoco, non sono riusciti a rianimarlo. Colleghi e dirigenti rimangono ora chiusi nel dolore e nel silenzio. I carabinieri stanno ascoltando i compagni di lavoro ed anche l'azienda sanitaria è ancora sul posto per le verifiche sulla dinamica. Il sostituto procuratore di Gorizia, Giulia Ferri Faggioli, ha disposto il sequestro dell'area. Mariano del Friuli, Maurizio Mervar, TGR Friuli Venezia Giulia. E sono stati scritti 3 nomi nel registro degli indagati della Procura di Udine per l'incidente in cui è morto a Lusevere a fine aprile il pilota delle Frecce tricolori Alessio Gersi. A meno di un mese dallo schianto dell'ultraleggero a Lusevera arrivano le prime iscrizioni sul registro degli indagati. Nell'incidente, il 29 aprile, morirono il maggiore Alessio Gersi, pilota delle Frecce tricolori, e un suo parente, Sante Ciaccia. Gli indagati sono 2 soci contitolari dell'azienda costruttrice, la Alpi Aviation, che ha sede nel Pordenonese, e la proprietaria del mezzo, che diverse fonti confermano essere una dipendente della stessa società. Un atto dovuto al fine di garantire l'esercizio il diritto di difesa, essendo necessari accertamenti tecnici anche di tipo irripetibile, scrive in un comunicato il procuratore della Repubblica di Udine, Massimo Lia. L'iscrizione arriva su indicazione della memoria difensiva presentata dal legale della vedova Gersi, Maurizio Miculan. A giorni verranno conferiti gli incarichi ai consulenti e notificati gli avvisi a tutte le parti coinvolte per l'effettuazione degli accertamenti. Questi ultimi, che si potrebbero trasformare in prove in ottica di eventuale processo, saranno effettuati verosimilmente all'inizio della prossima settimana. Un compito non facile, visto quanto rimasto dell'ultraleggero dopo lo schianto. Sono infatti pochi i pezzi su cui si può lavorare. Per capire se si è trattato di un guasto tecnico, si analizzeranno il motore, ritrovato integro, e l'elica. L'uso del Pioneer 300 era concesso ai piloti delle Frecce tricolori in comodato gratuito a fronte di un rimborso per le spese di manutenzione. Le parti, indica l'avvocato Miculan, hanno a disposizione tutti i documenti per verificare lo stato manutentivo del mezzo. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Traffico, code e rallentamenti sulla 4. In autostrada un incidente all'altezza di San Giorgio di Nogaro in direzione Torino ha causato una lunga fila di mezzi pesanti fermi. 15 chilometri di code dalla Tisana a Portogruaro a metà mattina. Traffico intenso anche all'uscita di Palmanova e code alla barriera di Trieste-Lisertà, anche qui in direzione Torino. In Consiglio regionale eletti oggi i presidenti delle commissioni. Siamo tornati poco fa dal Consiglio regionale per discutere, appunto, che ha discusso poco fa il tema dell'elezione dei presidenti di commissione. Tutto sta andando come da previsione, si chiude di fatto oggi la fase post voto del Consiglio, con l'elezione infatti dei presidenti, dei vice, dei segretari delle sei commissioni. Si può dire completato il lavoro che l'Aula ha cominciato un mese fa, incoronando presidente leghista Mauro Bordin. In base all'accordo di maggioranza, lo schema prevede a capo delle commissioni due consiglieri di Fratelli d'Italia, due della lista Fedriga e uno della Lega e uno di Forza Italia. Il voto a scrutinio segreto non ha per ora riservato sorprese, con il centrodestra unito e l'opposizione orientata sulla scheda bianca. Per la commissione finanze, la prima, confermato alla guida del meloniano Alessandro Basso. La seconda, attività produttive, sarà in mano un altro eletto con Fratelli d'Italia, Marcus Mormaier. La terza, sulla sanità, vede un tecnico al comando, Carlo Bolzanello, fratello di Sergio, in consiglio con la civica di Fedriga. Per la commissione infrastrutture è attesa la nomina a presidente di Alberto Budai della Lega, per la commissione invece sanità Diego Bernardis della lista Fedriga è in prima fila, appunto per la quinta, autonomie locali. Infine il forzista Roberto Novelli avrà quella dedicata all'istruzione. In un paio di casi ci dovrebbe essere una staffetta a metà mandato tra consiglieri dello stesso gruppo, eletti anche due vicepresidenti per ogni commissione, uno alla maggioranza e uno all'opposizione. Roberto Cosolini del Partito Democratico dovrebbe essere indicato a capo del Comitato Legislazione, Valutazione e Controllo, riservato tradizionalmente alla minoranza. E grazie ad Antonio Di Bartolomeo. Voltiamo pagina alle 17.58 del 23 maggio 1992. Cosa Nostra eseguiva la sentenza di morte contro il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti di scorta. A 31 anni esatti da quel tragico giorno, lo ricordiamo attraverso le parole del figlio di uno degli agenti di scorta uccisi, che allora aveva solo 4 mesi, Antonio Emanuele Schifani, figlio di Vito Schifani, oggi un giovane capitano della Guardia di Finanza e presta servizio in Friuli. A perdere la vita in quel tragico attentato, oltre al giudice Giovanni Falcone e alla moglie Francesca Morvillo, furono gli agenti di scorta Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo e Vito Schifani, che aveva 27 anni e da 4 mesi era diventato padre. Antonio Emanuele Schifani, oggi a 31 anni e 4 mesi, è un capitano della Guardia di Finanza e presta servizio in provincia di Udine. Lo abbiamo incontrato. Per me il 23 maggio è il giorno del ricordo. È il giorno in cui io e l'Italia intera ricordiamo il gesto ultimo, estremo, di mio padre, del giudice Falcone e i colleghi della scorta. È un giorno che ha segnato ovviamente noi familiari, ma che ha segnato l'Italia intera. Cosa ha significato crescere con un nome così pesante? Ha significato la responsabilità, ha significato il sentirsi sempre sotto esame, però è una cosa che ho affrontato con serenità, insomma. Sono diventato un capitano della Guardia di Finanza anche grazie a quel nome, no? Grazie all'estremo gesto di mio papà, che mi ha guidato il mio percorso. Come mai appunto questa scelta della Guardia di Finanza? Mi sembrava il modo migliore per portarlo avanti, colpito anche da quelle parole ormai famose del giudice Falcone, che diceva che bisogna seguire i soldi per arrivare a combattere la criminalità organizzata. E chi meglio della Guardia di Finanza a questo punto può seguire i soldi? Come non ricordare le parole di Rosaria Costa, vedova dell'agente Schifani, rimaste scolpite nella memoria collettiva. Io vi perdono, però mi dovete mettere in ginocchio. Quelle sono le parole del popolo siciliano, non sono soltanto le parole di mia madre. Quelle sono le parole che albergano nel cuore soprattutto dei siciliani, ma mi permetto di estenderlo anche al resto dell'Italia. Udine, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. Abbiamo un debito di riconoscenza verso chi, come Falcone e Borsellino, ha lottato con determinazione e fermezza contro la mafia e ha sacrificato la propria vita in nome della legalità. Il servizio pubblico ha il compito di coltivarne la memoria per tutti i cittadini e in particolare per le giovani generazioni. Questo è lo spirito con cui la RAI vuole onorare la giornata della legalità. Così la Presidente RAI Marinella Soldi e l'amministratore delegato Roberto Sergio. Per il servizio pubblico, aggiungono i vertici RAI, si tratta di un'occasione per ribadire quanto l'esempio lasciato da Falcone e Borsellino e dalle altre vittime della lotta alla mafia siano un bene comune da custodire gelosamente, un esempio indelebile. Proseguiamo con la cronaca. I finanzieri della compagnia di Tolmezzo e gli agenti della polizia locale della Carnia hanno posto sotto sequestro un'area adibita a discarica abusiva in comune di Paularo, vicino al torrente Chiarsò, dove sono stati individuati rifiuti abbandonati, anche pericolosi. L'indagine coordinata dalla Procura di Udine ha documentato sversamenti di rifiuti anche in tempi recenti, grazie alle foto scattate dall'alto, dall'elicottero della finanza di Bolzano. Quando l'area è stata ispezionata da terra, sono state trovate batterie al piombo esauste e pneumatici fuori uso. A formare la discarica contribuivano in gran parte i rifiuti di una vicina autofficina, anch'essa risultata senza alcuna formale autorizzazione. Oltre al sequestro dell'area e degli attrezzi dell'officina, sono stati avviati accertamenti fiscali che hanno portato ad indagare il proprietario dell'attività e quello dell'area per l'ipotesi di reato di gestione di rifiuti non autorizzata. Arresti domiciliari per un triestino di 24 anni ritenuto responsabile di stalking nei confronti dell'ex compagna. Lo scorso anno la donna, madre di un bambino piccolo, aveva deciso di interrompere la relazione anche per le continue richieste di denaro da parte di lui per acquistare stupefacenti che, se non soddisfatte, causavano la sua ira e scoppi di violenza. Lui aveva però cominciato a perseguitarla con telefonate continue, aspettandola fuori dal lavoro, suonando continuamente il campanello di casa o battendo con i pugni sulla porta. Alla fine la scelta di denunciare. Nel corso di una perquisizione, gli agenti del commissariato San Sabba hanno trovato e restituito alla donna il telefono che l'ex compagno le aveva sottratto e quindi hanno ottenuto per lui i domiciliari. E ancora la cronaca con una attività ispettiva dei carabinieri del lavoro di Gorizia con i colleghi di Monfalcone contro il lavoro nero. A Monfalcone sono stati individuati 3 lavoratori irregolari, uno italiano e 2 bengalesi su 6 occupati in un ristorante. L'italiano nei giorni precedenti aveva inoltre subito un infortunio sul lavoro non denunciato e aveva anche già percepito indennità di disoccupazione per oltre 5.000 euro. Uno degli stranieri era invece del tutto privo di documenti. Complessivamente sono stati contestati 30.000 euro di multa con sospensione dell'attività imprenditoriale per l'impiego di lavoratori irregolari in nero e la denuncia del datore di lavoro. 500.000 euro per 72 orologi di marca rubati a Salisburgo in Austria e 700.000 euro per un centinaio di orologi a Copenaghen in Danimarca. È l'entità dei bottini di un ladro intercettato dai carabinieri del radiomobile di Aurisina mentre stava cercando di raggiungere la Spagna, pare per mettere a segno un altro maxicolpo. I militari hanno scoperto che l'uomo era ricercato per 2 mandati di arresto europei emessi dall'Austria e dalla Danimarca per furto aggravato. Ora si trova nel carcere del Coroneo in attesa di estradizione. Ed ora parliamo di un progetto per favorire la lettura dei bambini portando i libri nei quartieri periferici della città, un mezzo per stimolare anche socializzazione ed integrazione. E dopo Gorizia è ora la volta di Udine. Ogni giovedì pomeriggio, da qui a fine luglio, alle ore 5 in punto, nei parchi delle aree periferiche multietniche di Udine, a San Domenico, quartiere dei Rizzi e Villaggio del Sole, verranno fatte delle letture aperte a tutti. Invitati d'eccezione sono però bambine e bambini con le loro famiglie. È il progetto Su e Giù per le Storie proposto dall'associazione Damatra, che lo scorso anno ha portato questo stesso esperimento a Gorizia. Thomas Sione, il referente. È andata molto bene, la risposta è stata davvero positiva, ma la cosa importante è che sul territorio siamo riusciti a lasciare centinaia di libri sia nei vari servizi educativi che la città di Gorizia propone, dal doposcuola al centro Lenassi, ma anche una vera e propria biblioteca all'interno delle palazzine Ater sulle scale proprio di questi condomini. Coinvolti nell'iniziativa le associazioni, i servizi educativi e le biblioteche già presenti nel territorio che da sempre lavorano bene nell'integrazione tra diverse comunità. Sono delle biblioteche che sono fornite oltre che di libri in italiano, abbiamo i silent book, i libri senza parole che sono leggibili da tutti, abbiamo una piccola biblioteca di lingua araba e anche libri in altre lingue. Grazie Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. E vediamo il tempo, cielo sereno su pianura e costa, poco nuvoloso in montagna, queste le temperature registrate alle 11. Trieste 21 gradi, Pordenone 25 gradi e mezzo, Udine 26 gradi, Gorizia 26 gradi e mezzo. A Piancavallo 17 gradi, a Sappada 18, a Forni di Sopra 21 gradi e mezzo, Tarvisio 22 gradi e mezzo, Tolmezzo 23 gradi e mezzo, sul Monte Lussari 13 gradi e mezzo, sul Monte Zoncolan 16 gradi e mezzo, sulla costa a Grado 21 gradi e mezzo, a Lignano 26 gradi. Le previsioni dell'ARPA Friuli Venezia Giulia nelle prossime ore: cielo sereno, poco nuvoloso con probabili velature. Sulla zona montana sarà probabile cielo variabile, soprattutto nel pomeriggio, con possibili rovesci sparsi e qualche temporale che localmente potrebbero poi interessare anche l'alta pianura. Venti a regime di brezza. Seconda giornata oggi della 19ª edizione del meeting internazionale sul tema la produzione di proteine per la scienza, la medicina, l'industria, organizzato da Elettra Sincrotone di Trieste in collaborazione con ICGEB e con il patrocinio di Area Science Park. Oltre 80 ricercatori provenienti da importanti laboratori europei e non solo si confrontano sui metodi di avanguardia per produrre sistemi multiproteici. Paola Storici, ricercatrice di Elettra Sincrotone che gestisce il laboratorio di produzione di proteine, ci ha spiegato perché produrre proteine. Dunque, produrre proteine, diciamo, è un tipo di attività che si svolge nei laboratori dedicati e le proteine sono utilizzate prevalentemente nel nostro caso come reagenti per essere poi studiate e capite. Spesso le proteine sono il bersaglio di farmaci, quindi è importante poterle produrre in un laboratorio per poterle studiare singolarmente e poi essere utilizzate per lo sviluppo di farmaci. Questa è un'applicazione. E ce ne sono molte altre e la tecnologia, diciamo, di produzione di proteine si basa sulle biotecnologie che partono dalla conoscenza della biologia molecolare alle tecniche di biochimica e sposa un po' conoscenze varie di chimica e biologia. Quindi che cosa si può fare concretamente? Quali sono le applicazioni pratiche possibili? Dunque, le applicazioni pratiche sono molteplici, appunto perché le proteine sono usate in laboratorio per essere studiate, per sviluppare la comprensione, diciamo, dei meccanismi molecolari di un sistema, di una cellula, di un organismo vivente. Possono essere il bersaglio di farmaci, come ho accennato prima, ma possono essere di per sé stesse dei farmaci, oppure possono essere usate anche per applicazioni diverse, anche nelle biotecnologie di diverso tipo, perché possono in grado di svolgere anche lavori, sono enzimi, possono fare molte cose, quindi vengono prodotte nei laboratori, nel nostro caso siamo laboratori prevalentemente finalizzati ad uso di proteine, di sviluppo di proteine per la ricerca, però poi possono avere applicazione anche nell'ambito industriale di interesse generale anche per un utente comune. E adesso lo sport, riparliamo del basket, la festa di una curva e di una cittadina intera impazzita per i suoi ragazzi. Cividale ha fatto sua con merito, gara 4 ieri sera, è trascinato un'Apu inspiegabilmente nervosa a gara 5 che si giocherà giovedì sera al Carnera. Lo ha fatto portando i bianconeri nella trappola preparata dall'esperto Pillastrini, difesa aggressiva e tanta velocità, unico campo dove i Ducali possono competere. Dopo un primo quarto bruttino ma equilibrato, i giallo-blu scappano con le seconde linee. Nella ripresa i bianconeri provano a rifarsi sotto, ma Cividale non molla davvero mai e piazza due incredibili canestri di Redivo e di Miani. Finisce 74-65 con 14 punti dell'argentino e 16 di Gentile. Giovedì al Carnera, dunque, la resa dei conti. Sentiamo allora i coach Pillastrini di Cividale e Finetti per Udine. Adesso bisogna resettare tutto, perché io credo che chiunque così conosca un po' di storia della pallacanestro, succede che adesso noi andiamo al Carnera e prendiamo 20 punti. E invece noi abbiamo tutta l'intenzione di andare al Carnera e vincere la partita. Quindi adesso dobbiamo trovare il modo di riposarci, di scaricarci completamente, poi di ricaricarci e capire dove sono i punti deboli di questo squadrone incredibile, perché anche oggi, quando Brisco si è acceso, ha fatto cose da campione. Gentile in certi momenti non lo marchi. Tutti questi giocatori che arrivano e sono veramente straordinari. Però abbiamo vinto noi, adesso siamo due pari. E quindi adesso andiamo al Carnera con tutta l'intenzione di vincere. Una partita, a mio modestissimo parere, condizionata da due numeri, sicuramente il 12 su 24 ai tiri liberi da parte nostra e il tempo che siamo stati in vantaggio in questa partita, cioè 2 minuti e 33 secondi. Quindi questi sono i due dati, secondo me, che dobbiamo portarci via da qua. Come avevo già detto più volte, siamo consapevoli del valore del nostro avversario, della profondità del suo spirito, della profondità della sua anima, e questo ci deve far capire come dobbiamo giocare gara 5. Trenitalia ha organizzato 2 treni straordinari andata e ritorno tra Trieste e Tarvisio per la 20ª tappa del Giro d'Italia, la cronoscalata dell'Ussari del 27 maggio. I 2 treni si sommano all'offerta ordinaria della regionale di Trenitalia. Un treno partirà da Trieste alle 6.10 per arrivare a Tarvisio Boscoverde alle 8.55, confermate a Monfalcone, Sagrado, Gorizia, Cormons, Udine, Gemona, Carnia, Pontebba, Ugovizza Valbruna. Ritorno da Tarvisio alle 21.08 e arrivo a Trieste alle 23.32. I treni potranno ospitare circa 400 persone, oltre che 128 bici, in 2 vetture appositamente attrezzate, con possibilità di ricarica delle 2 ruote elettriche. Trenitalia raccomanda di acquistare con anticipo i biglietti di andata e ritorno. E ora alcuni appuntamenti per questo pomeriggio alle 17 nella sala conferenze della Biblioteca Statale Crise in Largo Papa Giovanni XXIII a Trieste. L'autore Simone Bartolini presenta il volume Confini d'Italia. Aspettando la notte dei lettori alle 18 alla Biblioteca Ioppi di Udine, omaggio ad Arturo Zardini e i suoi canti friulani tra innovazione e tradizione nell'ambito delle Settimane de Culture Friulane. Alle 20.30 a Pavia di Udine, a Villa Pighin, Matteo Bellotto presenta Di Terra e di Vino, editrice Biblioteca dell'Immagine, in dialogo con il direttore di Onde Friulane, Mauro Missana. Per gli appuntamenti di lettura della piazzetta del Villaggio del Pescatore nell'ambito di Duino & Book, nello spazio esterno di Bar Panetteria al Villaggio dalle 18 alle 19 in collaborazione con Bora, la presentazione del libro Occhio de Soto con Gianfranco Pacco. Ed è tutto per questa edizione del giornale radio regionale. I prossimi appuntamenti con l'informazione della TGR del Friuli Venezia Giulia, il telegiornale alle 14 sul terzo canale TV, l'informazione radiofonica torna invece alle 15. Mauro Cumine, Andrea Fontano dalla parte tecnica, Samantha Gon in redazione e dalla Razzani e Rita Micoli. Grazie per l'ascolto e l'augurio di un buon pomeriggio. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.